Piazze medievali, XI-XIV secolo. Piazza del Campo è una delle più famose piazze medievali ed è ancora oggi il cuore della città di Siena. L'edificio più importante della piazza è il Palazzo Pubblico, costruito tra il 1297 e il 1343. È un palazzo elegante, con la famosa Torre del Mangia. Intorno a questa piazza ci sono molte vie strette, tutte piene di bandiere quando c'è il palio. Il palio è la festa più popolare di Siena. Il 2 luglio e il 16 agosto di ogni anno c'è una corsa di cavalli con il palio come premio.